effettivamente su, se te la rompe il mento, come te la chiama rompe, è un discorso, altrimenti dovrebbe durare 20 anni, 30 anni, poi rimane sempre in chiavi, capito? Cioè il lavoro lo fa sempre uguale, non è che un giorno perché c'è umidità lo fa in un modo, un altro giorno non c'è umidità lo fa in un altro modo, capito quello che ti voglio dire? Ma è strano però. Ma comunque questa che c'è qua sopra, per dire, cioè dopo una quindicina d'anni a partire la via, che è una turbo come quella, cioè ha perso un radiatore, poi dopo adesso c'ha più di minimo, c'ha 18 anni, c'ha 40. Qualche radiatore l'ha perso, ma dopo quanto però? Io non sto parlando di perdere qualche radiale, io sto parlando per avere sempre un'ultima trasmissione e un'ultima ricezione. Se tu vai su